contatti a Rui, a Luci, avevo giocato con Filippo, me l'ha leccato, ma la yoga, ma vai di Nipi invece di tutti gli inghendi. E poi mi sono, la verità, stavo facendo altre cose e mi sono, non mi sono lavato, poi vabbè mi sono fatto la doccia. Ma nel frattempo sono stato un'oretta fuori, mi è passato tutto il rossore, non c'era più il rossore come dove me l'aveva dato Filippo. E l'aria mi ha detto che c'è, che la mamma del cane ha una protezione, una cosa. Sai cosa è successo? Che c'è leccato l'acido prima, siccome la pipì contiene ammoniaca, ti ha fatto abbassare il rossore. È quello, Allora la prossima volta che ci fammi leccare mi faccio pisciare la gamba. Guarda che anche quando punge la medusa la pipì fa bene. Ammoniaca bibù. No, ce li avevamo gli sticchi quando lavoravamo, sempre ce l'avevo io in macchina, perché a volte aprivo i contattori in casa a fare letture e scena di web e si attaccava lì alla reggi. Allora ce l'avevamo sempre. No, vabbè, non sto scherzando, dove mi ha recato Filippo è passato il rossore, non so perché. Poi vabbè, ci ha fatto la luce e non è più apparso il rossore. Adesso c'è la puntina rossa, dov'è? Non mi... c'era appunto una puntina rossa, però è sparito tutto. Ma appena appunto che mi si è fatta una battacca ruia ruia. A me una volta non è molto ma butto il buvone, mi c'è cuto, ma alla pancia, ero in magliettina tornando dal mare. Ero con un'amica, ho fermato la moto, cavolo, sono sceso giù e come mi sono inchinato mi è uscita acqua dal naso, sicuramente come praticamente mi ero tuffato al mare, cosa che stavi che Gianni cosa c'hai, ti senti male? Mi sono gubiggiato in due, ha alzato la maglietta e se un abbezzo di battacca mi ha fatto, un bubuglione mi ha fatto, e quello era buvone, ma ha sentito un rumore di pietra, sembrava. Ma pensi, se ti ha dovuto un altro ti sei cotta a pancia, a me a cambo mi sei cotto in moto, a giù mai cazzo si su fuori strada da Rodoro. Io già sto usando di nuovo il casco, quello con la visiera davanti, che la sollevo, prima stavo usando quello senza visiera, ma l'ho vista brutta, proprio via Carlo Felice, una Vespa mi è passata in mezzo tra l'orecchio e l'aggancio del casco, e si è fermata in mezzo, stava per pungermi e mi sono fermato, mi ho tolto il casco e si è staccata. Se mi pungeva accanto ti ci vuoi stare. E allora ho detto, da oggi casco con la visiera davanti, che è quello insomma che uso più d'inverno per estate, non me ne fotti nulla se c'è caldo, perché almeno con la visiera davanti non entrano gli animali, capito? Mi sotto a casa di Natale è successo un incidente per un colombo che è entrato in una macchina, vedi il virus Natale. Ah no. Il colombo. Tra le fertilia per Capocaccia è morta una carissima amica di Laria, insomma degli altri miei nipoti di Alghero, eccetera, per una Vespa, figurati. La sciapella si è sbattuta a un albero, c'erano i finestrini aperti, è entrata una Vespa e stava pungendo, gesticolando, quindi io proprio per mandarla via, ha mollato lo sterzo e la macchina si è uscita fuori strada, si è caduta là e morta. A me mi è entrata sotto la gamba dei pantaloni una Vespa, mi appunto in macchina, guarda il dolore che ho provato, cazzo, mi sono fermato di colpo, l'ha giocato un paio di gol per farla dalla Vespa morta perché l'ho ammazzata, ma cazzo adesso è entrati sotto i pantaloni, boh. E intanto è entrata e sono cose pericolose. A me andando in vicino a ribunti, mi si è cotturato un buvone a capo, cazzo, non so cos'è la giornata, ci vuole strada, come se mi avviene con un clacco. Sì, e così sono durissimi, anche col piede non ce la fa schiacciare. Cazzo, che dolore. Lo so. Ho cambiato radio, 430 a 140 adesso, c'è differenza già di radio? Sono tutti e due potenti, il 430 è però più potente. Lo so, vabbè, allora uso anche questo, ogni tanto bisogna far andare anche questo, KK. Luca sta cercando monopattino. Monopattino? e Antonio già ce l'ha la bicicletta elettrica, Antonio Mopolo ce l'ha la bicicletta elettrica, anche bella. Sì, già lo so, ho anche vista già una bella bicicletta. Stamattina mi è sembrato lui guidando la macchina delle bombole, perché c'era anche il coso P, la P di privato, di principiante. Sì, sì, sì, sta uscendo, guida lui e Daniele a fianco, perché lui c'è ancora il foglio rosa, capito? Quindi, già era lui, già lui. Si è comprato la P, quella... non l'ha presa adesiva, ma l'ha presa con le calamite da internet. Sì, i lapi di paraculo ci ha preso. E infatti. Te l'ho detto, ti vuoi prendere la B. La B è di quella di Bizona. Tanto una bomboletta che nel mio cazzo lo uscio stamattina le macchine. Mi sono dimenticato, proprio prendere la bombola di scorta, se porca miseria. Ah, bisogna che mi ricordi. No, io ne ho due a cazzo. Anch'io ne ho due, ma una l'ho già. L'ho cambiata a ieri, di solito la cambio, uscendo me la prendo, invece mi sono dimenticato di portare, di andare a prendermi l'altra di scorta. E infatti anch'io l'ho finita avanti ieri, mi sa, proprio. La bombola, mi devo prendere quella di scorta, sennò mi va di brutto scherzo. No, io c'ho due cucine, una in veranda, ho fatto il cucinino e poi la cucina normale. Però d'estate, quando devi fare roba fritta, roba del genere, è più comodo farla fuori, capito? Se no ti fiagga tutta la gara. Già lo so, ma io due cucine dove me le metto? Se metto un'altra cucina me ne devo andare io. Portala qua, la mettiamo fuori all'aperto, poi già arrivati. Gappa gappa. Ehi, via. Mi vogliamo un po' quei cosi, per carità. No, io scendo a prendermela da fuori. Scendo io per non fare salire lui qua, capito? Scendo io qua. Stamattina dovevo farlo, invece mi sono dimenticato. Ma c'è la moglie, il gatto va. Lo gabba a palloni. Pensieri, tante volte quando c'è molti pensieri qualcosa ti sfugge sempre. Io l'altro giorno sono andato al supermercato e devo comprare le uova, ho comprato tutto tranne le uova. Perché apprezzo. Adesso me l'ho scritto, ordinare bombola, o sai che me ne dimentichi come te la travuccia. Il papà mi sei scortando a vedere la viuda, ma vi consumate buruchista. Così me la ordino e ce l'ho. E io almeno voi siete in città, capito? Io sono fuori città, non è che mi manca di domenica, dove vado? Vabbè, Antonio, ma se dovesse capitare già vieni a prendermi, e trovo lo stesso, non è quello il problema. E infatti Antonio già è gentile, infatti io l'abito da Edur, ma stesso. Adesso lo telefono e me la faccio portare, così almeno siamo a Dama. Cazzo, ho trovato la ricetta della pasta alla pasta capricciosa, si chiama, come la pizza, Ah, ma la bruba a fa, vedi se è buona. E com'è nata lì? Com'è nata la pizza, Io l'ho vista fare, il procedimento l'ho visto e tutto, e quindi la faccio. Ci vuole la pasta, poi ci vogliono i pelati, prosciutto, carciofini, funghi, olive nere, mozzarella, aglio, basilico, da poi origano, olio e sale. Mi ho messo le quantità e tutto, così almeno la faccio a vedere com'è, se è buona. Dici che è un bel buona. Come te che sia la pizza capricciosa? Buona la contadina con i funghi trifolati, boh che buona. Oh, Natalì, ricordati che tutto quel condimento, ok, metti l'olio, un pochino di olio, l'aglio e il prezzemolo, butti tutto dentro e fai appena appena di soffritto con quegli ingredienti che stai scelto, poi ci butti per altro. Se vuoi una cosa ancora più sfiziosa, che non si chiama capricciosa, ma si chiama pasta alla carnacina, ok? Ci metti la panna da cucinare e giri tutto. Il sugo diventa rosa, ma oia, ora ma io. E i cuochi hanno il vizio della panna, già lo so. ma non arriva a sì, ma la posto normale, la poi la porta la gamaccina mentre si sente giù. Buona, se c'hai appena di bendi, ci metti un cucchiaino di bendi, ma ti dico, io la faccio con te, è pesante, devi fare a pranzo, molto pesante, ma è una cosa squisita, veramente, per me, se fermi con le vogliello, oh, loro mi, buona redda, e guarda, è più buona della, a me piace molto la pasta con il salmone, no? Per mettere il salmone, fanno il salmone, ma quella se la mette nel buco del culo, è molto molto più buona. Ehi, già lo so, il salmone piace a mia moglie, adesso vedo di fare questa e vediamo un po', già lo so il procedimento, l'ho visto, provo a farla a vedere come esce. No, già è buona, tranquillo, è buona, la puoi fare normale oppure con la pasta, è buona, è fatta. La faccio anche io, va buona, non problema, già, queste sono cose squisite che però pesano nel senso che sono pesanti, da digerire. E faccio cantato bomba, non fa nulla. Ehi cata, una voce ogni tanto già si può fare, non stiamo sempre mangiando di roba così, no? Quello fa bene ai diabetici. Ehi, ci pensate la glicemia a 3000. Già la pasta è un controsesso per i diabetici, poi tutto il resto, panna, tutta questa roba, oi. Vabbè, ma non so chi sei, boh. Io prima non ne mangio mai, lo mangio la domenica qualche volta, però quando faccio il primo la domenica faccio ravioli oppure faccio cannelloni, roba così, capito? Però poi sto tutta la settimana senza mangiare. I ravioli abbiamo mangiati oggi, ma la fai già con la pasta, i paccheri, quelli grandi? Buona rete, poi batta al forno. Guarda, io l'altro giorno ho comprato le tagliatelle allo scuglio, però erano quelle già pronte, ma era di una squisitezza quella pasta buonissima, Natalina. Te le leccavi le dita, ma buona veramente, sembra fresca. Ehi, e te credo. Li manichi di Gianchetta, tu sei di Zendi. Sì, e i paccheri chiamano le notte maghi e Gianchetta, si può mangiare prima nei ravioli, ma ti dico che una bella teglia è a fine del mondo, a fine del mondo, buona, e ce ne sì, quelle sono buone, mi già, io le prendo spesso perché è già tutto pronto, le metti in tegame, è congelata, c'è questa cosa che la giri, poi ci giogli tutto, amalgamata bene, ci butti un po' di formaggio sopra, ma alla grande. È anche piccante, oltretutto, c'è anche il peperoncino, tutto qua, però misurato, capito, non è di quello fortissimo, c'è peperoncino pure, ma è di una squisitezza, sembra, guarda, io la pasta allo scoglio l'ho mangiata tante volte, fresca, con i frutti di mare freschi, ma c'hanno proprio il sapore del mare. Io la faccio così lo stesso, già, con quelli freschi, un attimo che mi ha chiamato mia moglie. Sì, bella pasta, fresca, io l'ho fatto l'altro giorno, ho fatto gli spaghetti con i gamberi freschi, ma ho fatto il sugo con i gamberi freschi, per i carabinieri grandi, tagliati in tremi, ho fatto solo la punta della testa, il resto, la testa tutta dentro, il sugo, e poi i gamberi messi nel piatto col sugo, cazzo, ma la squisitezza a favore, sono uscito veramente molto buono. Già, bisogna stare sempre attenti al bolestirolo. Io adesso sono un po' che non la faccio, però molte volte l'ho fatta, ho fatto il sugo con i granchi e poi condito la pasta. Buona ridda. Sono buoni, no, i granchi sono più fastidiosi da tagliare, da fare, ma c'è i gamberi poi li prendi, con una trica ballata, buoni. Consumati nel sugo, così assieme al sugo, quindi avevamo questo gusto molto molto buono. Vabbè, la magnaia venne sempre, bisogna inventare. Io seguo già, mi hanno regalato una zucca di quelle grandi, già, però praticamente era a trombetta, si chiama una zucca con la trombetta, quella fine lunga. mi ha detto questo ragazzo, me l'aveva data, mi ha detto se la devi fare, vabbè, col passato, passato e due, eccetera, è buono stesso. Come a farla come fare le zucchine? Cioè come? Le zucchine le taglio, le frigo, taglio le affette e frici. Di una squisitezza, così che a dosi, più buona della zucchina fritta. No, così non l'ho mangiata, l'ho mangiata con la minestra, quella lì fatta a pasta e zucca. Così c'è buona, fatta a pezzi e mangiata con la minestra. Che no, no, mia moglie fa il passato di verdura, la bollisce, fa il passato di verdura, zucca e carote. Capito? Zucca, carote, spinaci, tutto frullato, passato di verdura, ma d'inverno, calda, quella è buona. Adesso l'ho tagliata a fette, come fare le zucchine fritte. E invece fritte, ma sono molto più dolci ed è buona veramente, non l'ho mai mangiata. Sarà tipo una volta che me ne è venuto questo amico mio che va a pescare al Cuga e pesca un bel di orate, di carpe, è venuto a casa, già ne vuoi carpe, ne ho 4 o 5 e non ci stanno nel freezer, sono anni, non mi piace la mele carpe, non ti offendere, ma io pesce di fiume non lo mangio, ecco, fai come ti dico, da qui mi dai la risposta, mi dice per lui. Beh, mi fa tagliare queste carpe a, diciamo, a cosa, a tocchi, no? A fette e mettere nel mezzo al sale grosso tutta la notte. L'indomani mi ha detto tu le devi fare come il baccalà adesso, fritte come il baccalà, in pane di frici. Cazzo, ma sai quanto erano buone, ma buone veramente, sembrava baccalà. È buonissima la carpa, è chiaro che devi lasciarla sotto sale almeno 12 ore. La puoi fare anche arrosto, la puoi fare anche al forno con le patate, buonissima, però la devi lasciare 12 ore nella carta stagnola col sale grosso, ma anche col sale fine, col sale fino, non fa niente. E poi l'indomani la lavi e la metti al forno, è buonissima, buonissima, bella succiosa, stai scherzando, buona. Se la mangi così non ha sapore di niente, però è buona, sì sì, ma spaccata in due, porta la del centro, tutto pulito, la testa è impanata e fritta, è come il baccalà uguale. Così non avevo mai mangiato le anguille fritte io, le ho sempre mangiate col sugo, mamma le faceva col sugo le anguille, col sughetto piccante, ecco, erano buonissime anche così, però fritte non le ho mangiate. Questo amico mi ha detto prova a farle fritte, no? E dopo mi dà la ripulsa, le fai a pezzi, le fai fritte, ma sai quanto sono buone? Sono buone, sì, sai che c'è sotto, avanti, chi c'è sotto che vuole entrare avanti, ha durato dopo due sere. Tattarino, adesso ti viene la fame. No, è già venuta mia moglie e così mangio, perché mi ho misurato la glicemia e così siamo a posto. 102. E invece ho finito le strisce, non me le posso misurare, sto prendendo a Brizio, così, però sto facendo le unità di solito che faccio, ma non è giusto fare così. Lo dovevo dire al dottore, sono andato e mi sono dimenticato di darmi qualche striscia in più. Ma vuoi vedere una striscia di cilibratica? Ci sono le strisce per la macchinetta, per misurare la glicemia, ci sono le strisce, no, quelle strisce lì, si chiamano lancette. Praticamente quelle lì finiscono sempre prima del tempo, non mi durano tutto il mese perché ce n'è sempre qualcuna difettosa, se non ci fossero difettose mi avrebbero durato, ma ce n'è sempre qualcuna difettosa che praticamente tu le inserisci e ti scrive error numero 3. Che ne sono? 19:11. È andata la serata. E intanto vi avete fatto il QSO parlando di cose come si deve, vedi? Così è bello a parlare. E ancora la grande di noi vita è l'importante. Ha fatto bibi, bibi, bibi. Hai detto va, andata. Oggi arte culinaria. E di vari argomenti si può parlare, di tutto. Noi c'è anch'io e come arrivo e come non arrivo, per forza la gente si stanca. Vabbè, adesso devi domandare controlli. Boh, io mi ho avvertito, ho fatto 4.30 a Galaxy, adesso sono passato a 140. Basta, tutto il resto l'ho spento, tanto sono già calde, a posto, adesso sto usando 140, c'è già la ventola in funzione. batteria. Cazzo, quattro volte ci aveva. Sul cavetto qualcosa c'è nel microfono, scusa, non è la radio. Stai usando il 3009, no, il 3009 era sicuramente il microfono. Ma il microfono era nuovo, cazzo, l'aggio dimontato, ho messo lo spray, tutto grande, senza pensare, poi mi è venuto in mente, adesso prendo il coso e misuro a vedere quanto c'è, quanti volti c'ha. Ho preso l'apparecchietto, ce l'ho misurato, ho fatto il gioco. Sì, ogni tanto le batterie vogliono anche misurarle. Io ecco, il cane più 13 sarà un anno sa batteria. No, mai poco, visto che funziona sempre. E l'MB più 5 lo stesso, gli altri sono tutti alimentazione diretta dalla radio. Ma io questa batteria ce l'avevo prima nel Super Sidekick, capito? E lo usavo con quella lì. Poi quando l'ho fermato gliel'ho tolta la batteria, perché se lo si usi da dentro fa casino. Te l'ho tolta e mi è rimasta lì, quindi ho usato una batteria già usata. Gappa, lascia un attimo, vado a bere già. Ehi, avanti, tattarino, mangiato hai? No, sto mangiando. Non c'è problema però. Buon appetito. No, qua sta cucinando. Pollo, cosce di pollo col coso, col peperone. Aspetta che ti mando la cosa. Ah, Natalia, Manuela volando, vi sarai. C'è un po' di caldo, ragazzi, sono un bagno di sudore. Cosa, Lu? C'è un po' di caldo, sono un bagno di sudore. Lo so, c'è caldo, anch'io so così, e poi chissà appiccicoso e caldo umido. Sì, caldo appiccicoso è un frutto, è fastidioso. Spero di andare. Cosa vuol dire già Manuela volando? Cosa, Lu? Ho detto, cosa vuol dire Manuela volando? Si è lanciata col paracadute. Mazzo. Quella è, guarda, mi ha telefonato da cosa, da Arbatax. Mi ha detto, papà, sono ad Arbatax. E cosa ci fai ad Arbatax? E sono venuto con degli amici, adesso mi hanno fatto un regalo, poi ti faccio vedere. Se non mi ha mandato quando sei tu fatto, c'è tutto quanto il filmato, da quando è entrata sull'aereo, quando si è buttata, dove sono atterrati, tutto il filmato abbiamo mandato, ho detto tu sei scema, ragazzi. Ma mi ha fatto stare in tensione tutto il tempo. Molto si paga, no? Si paga un po', 300 euro. Vabbè, mi sa che, mamma mia, io mi sei buttato, non ce la prima di quasi di farlo. E un calcione di dietro, per se ti butti. Ma non è cuscino, se uno va a volare dell'altezza ci può rimanere secco. Ma gli hanno fatto il regalo gli amici per il compleanno, si sono uniti, gli hanno fatto il regalo questo, invece che fare altre cose gli hanno regalato il volo. Mamma mia, vabbè. Coraggiosa, molto coraggiosa. Manuela, lui. Manuela è tremenda qua. Non ha paura di nulla. Nei giochi di gara l'ha degata, tutti quelli pericolosi si ha fatto. Immagino. Da quando era piccola sono andata sul tappeto volante che non ci voleva andare, papà porta anche a me sul tappeto volante, era piccolina, no Manuela ti spaventi, no papà te lo giuro non mi spavento, ma convinto la giubusata, poi quando era sopra, papà quando finisce questo gioco? no, io buttarmi da lì, proprio ci vuole coraggio. Ho un amico Paolo, cazzo, uno due volte si è buttato, lui poi ce l'ha fatto anche, ovviamente con le bombole, tutto, insomma, con l'attrezzatura giusta, sai che ha fatto, 30 metri di profondità o 40, mamma mia, ma anche no. Oh Lu, questi erano 400 metri, non ti riguardo. Ma dico, cazzo, ma in mare, 40 metri, 50 metri di profondità sono tanti, sono tanti sì, bisogna avere le palle per fare queste cose, anche perché se non si usare bene le bombole ti viene un'embolia e ti rimane. Di sicuro per rimango un secco, questo è poco ma sicuro. Io già l'ho fatta la pesca subacquea, ma è in alture, diciamo, in basure, non in alture, 7 metri, 8 metri. Però ho sempre pescato, dai. Tutta quella profondità è esagerata, boh. Io ma un pesce non mi devo ammazzare io. Sto facendo il ventilatore. Cosa? stavo accendendo il ventilatore, cioè un bel caldo, sta segnando 30 gradi. Ma fa male il ventilatore, lo sai, non te lo puntare addosso che ti grimba. No, già gira. Ma io l'ho sempre usato, le prendevo, non ho mai fatto niente a me. Gira lui, e ogni tanto mi arriva questa, capito, un po' di arietà fresca. Avanti Claudio, dove sei? Dove sei andato? Scappato sì. Claudio non c'è, Natalino. Finita di mangiare. E si bagna nei grani. No, non ho finito, adesso c'è il secondo. Ah, scusami. Luca, tu mangiato? No. Manco io. Cioè, per la verità ho visto, mi sono mangiato crudo pure. Fanno male queste cose. Già, cucinato, bene o male, ma... giusto, per carità. Eppure sono ben buone, a me piacciono bene, sono fatto così, mi piacciono molto i wurstel a me, fatti anche con le cipolle, tagliate a metà, fatti con le cipolle, con l'olio, fatti soffriggere e poi messo il ketchup sopra, già quanto sono buone. Non so, anche a me con le cipolle, mi piacciono un sacco. Ma crudi sono nel frigorifero, non è che batteri non ce ne sono. Ma non lo so. Mi ha detto, lo metto un pezzettino, se no le mangio a pappa. Giusto per farmi sentire la, sai, il profumo, no? Queste pappette, deve essere proprio affamata per mangiarla. Se no non te ne mangio. Allora ti metto un pezzettino di wurstel. E se la mangio a tutte. Allora stai mezzo andiamo a me. Il mio non è lo stesso, il mio se non gli dà l'altra roba, carne e tutto quanto non lo mangia. Non ne mangia le crocchette giù. Beh certo. Ma Claudio che fine ha fatto? Questo microfono come va Luca? È montato sul 3009. Bene, bene. Ma c'è il video di tua figlia, mandamelo già, quello cancello. Che cosa? Se hai il video di tua figlia, mandamelo così dopo me lo guardo e poi me lo cancello. Devo guardare se ce l'ho, aspetta. Luca! L'ho visto, insomma, Maria. Sto guardando, aspetta. Poi cancellalo, non lo far girare. Mazza. Diciamo che sono cose molto pericolose, non sono una passeggiata, ecco, capito? Sono sport estremi, si sanno, sono sport estremi, non fanno, non certo sono cose che possono fare tutti, devi avere un coraggio, io per dire soffro di vertigini, non lo farei mai una cosa del genere. Idem, l'ho cancellato comunque. Meia. Hai visto con che coraggio? Ridendo, è salita, ridendo se n'è andata. Quanto è durata questa cosa? Non lo so, non gliel'ho chiesto questo, però immagina che sono 400 metri che si è buttata, hai visto come si vedevano i terreni? 4.000 sono, non 400, 400 ma con baraccadute, sabri. Scusa, 4.000, sto sbagliando io, 4.000, hai ragione Natalì, 4.000 metri sono. Io sarei morto solo volando. Ma dice che si è buttato un tipo dal ponte l'altro giorno. Due. Cosa? Due se ne sono buttati, così me l'hanno detto. Insieme? No, insieme, uno prima o uno dopo. Poi la gente scende di gabbo. Per forza, sta portando la gente cazzo, a non avere più soldi, che tutti gli aumenti che ci sono, cazzo, tasse da pagare, questo e quell'altro, non vari di là ma paga tutto quanto, non si dispera pure. Lo so. Ma gente con problemi di droga, già non è solo quello. Gente che magari, come ti posso dire, si lascia con la moglie o con la compagna, esce di capo e si butta la morte, è roba tua. Mi dì da Natalino, una volta ne abbiamo preso uno, io e Natalino, li stavo facendo vedere dove si era buttato, l'abbiamo visto questo buttano, ci abbiamo fermato la macchina in mezzo strada e l'abbiamo acchiappato. Si stava già con la gamba fuori. E poi ci ha detto, dottore, non mi lasci stare, voglio morire, non si può manco morire in pace. Ha detto, buttati, che so perché ti dica, buttati. Cioè, se proprio parli così, io ti sto salvando. L'ho detto, la vita è bella, si possono risolvere i problemi cercando di... Cazzo, questo qui si voleva buttare. E ancora è nuda già. Adesso il 25 ci sono le votazioni, no? La gente giù di Salvini mi ne so parlare di liberarsi. Di Liguria fa le leggi sugli immigranti, questa. Invece di pensare alle bulletti e alle aziende che chiuderanno, perché loro non fanno le leggi a abbassare le bollette, non ce la fanno più andare avanti. C'era una ragazza ieri in televisione che ha questa azienda qui, dice: io chiudo e ho 30 famiglie da mandare a casa, dimmi tu cosa, e devono chiudere 120.000 fabbriche, non lo so io cosa succede. Ci stanno portando di nuovo al periodo della guerra, che non c'erano soldi, non si trovava nulla da mangiare né niente. Ci stanno portando a quel periodo lì, questa gentaglia di merda, ma io non ne avrei lasciato più uno di quelli lì che ci sono al Parlamento, li abbiamo cavati tutti quanti, non ce n'è uno che vale, l'altro che serve. Ci vuole gente con idee, gente giovane e gente che abbia idee, non gente così che anda a cambiare la poltrona e pigliaci di dirà. Non male, già ne entrano la metà. Non c'è altra razza peggiore dei politici. Sono bugiardi, ladri. Se non stai attento, cazzo, rubano le caramelle ai bambini. Quelli si intascano un sacco di soldi ogni mese e date il grembane di fame e dopo mettono le leggi per gli altri e loro mangiano gratis, danno le macchine gratis, tutto gratis. Non hanno problemi di nulla, fanno la vita da nababbi. Comunque c'è la legge già pronta, come ci sono le votazioni, ne entrano la metà dei parlamentari, 400 in Parlamento e 200 al Senato, e buono. La legge che devono fare è quella di pagarli uno stipendio normale come tutti gli altri, se lo vogliono fare lo fanno, se no lo lasciano. Prendono troppo, Natali, 5.000 euro al mese, sono un mese di là. Una cosa, quali 5.000? 20.000 ne bigliani. Canne biglia 20.000 e canne biglia un bel di più. Natali, le facciamo domani. Infatti, non ci vanno a fare politica se non ne vogliono fare. Uno stipendio normale. Perché è meglio di mio padre, è meglio di te, meglio degli altri? Sono i politici. Non ho capito. E quelli che hanno testa non li fanno andare avanti. A chi mi dice caniranno, chi subito? A Berlusconi, a chi mi voglia mangiare a pigliare, a mangiare dosi, a fattura. Buonasera signora Concetta, ho sentito la sua voce. Gluckley. Sì, adesso mi alzo da mangiare a te, allora, arrivo subito. Sì, cosa le stai dando da mangiare? E tanto poi voi ve ne andate, io sto qua, non c'è nessuno, dai. Mi sa che vi saluto anche, tanto poi tra un po' voi ve ne andate. E la pappetta, quella bustina, quella della purina, purina, boh, se non mi ricordo, vabbè. E poi sentivo di Luster, e basta. È presto, non ce ne andiamo adesso. È ancora presto, sono le 7:30. All'ultimo di Nandi, non è che ci no, anche più tardi. No, non è detto che vado via alle 8, alle 8:30, alle 9:20. Ok, avanti, Tattalino. Sto arrivando, che ero in cucina. KK. Hai smorfito tutto, sì? Tutto sbranato. Ma io lo faccio, perché se no mi tocca aspettare troppo per farmi l'insulina, mi capito là. Perché 2 ore dopo mi devo misurare, 2 ore dopo che ho mangiato mi devo misurare la glicemia e poi farmi l'iniezione per la notte. E io invece mangio, faccio l'iniezione e poi faccio anche quella per la notte. No, io ne devo fare una sola, quella per la notte. Cazzo, prima gli anni quasi uguali tra lì. E prima magari ce l'avevi più forte. No, sempre bassa ce l'ho avuta. Infatti insulina ne facevo pochissimo, 4 unità di quella veloce e 6 di quella lenta. Aveva pigliato una bacchigliana di, anzi mi voleva togliere anche quella della notte, però per non darmi altri farmaci, siccome ha avuto la pancreatite io, allora mi ha lasciato l'insulina della notte. E anche l'insulina non è un farmaco? No, per non darmi altri farmaci che mi possono fare male, già ne prendo truppi io. Su, io ne piglio 9 di bacchigli. Però io ho avuto la pancreatite ed è pericoloso. Cazzo, non accanto a niente Murelli. Malone in acqua, durante un'inversione muore una donna a Villa Similus. Ce n'è, ogni anno ce n'è di queste cose. Ma quello che era successo tanti anni fa a Ciel Sereno, un fulmine, cavolo, ne ha missato uno che c'aveva la catenina, l'ha preso la catenina e l'ha lasciato secco nella battigia. A Ciel Sereno, un fulmine. Ma certo. Yeah. troppa gente, troppa gente al momento, troppa. Adesso non so quel tipo se lo conoscevi, già abitava a Latte Dolce, si chiamava Eligio Raggio. Praticamente ha causato un malore in macchina. Se ne sono accorti perché si è fermato la macchina. Un infarto lacrimato, perché la gente stava cercando di aiutarlo, sono arrivati i soccorsi, hanno fatto il massaggio, ma è morto. Io mi ricordo sempre del direttore della scuola numero 6, di fronte alla chiesa ha avuto un malessere, lo stesso in macchina, si è fermato, è rimasto accasciato, dov'era, l'ho chiamato l'ambulanza, era già secco. Grande così e fulminante. Mi ho sentito. Ma io dico, no, quella cosa, però io la penso così, ma ne sono fumatore, un esempio, no? Mi c'era un infarto, la sigaretta è la causa, io dico, come cazzo fa uno a riprendere a fumare? Non ha paura. Ma sono attivi che sono così, e ci abbiamo avuto 3 infarti, 4 infarti, e la diga di ti secca e non fumi più. Se parla da Lazzarino che fuma. Ma vabbè, ora è riferita a lui, ma dico, cazzo, 4 infarti, ne? Beve un bene anche questo qua, ma non ne ha putti nulla, di che muore essere a regare. Così dicono, poi quando stanno morendo chiedono aiuto. Sbagliato, secondo me è sbagliato, perché già ti sta avvisando, e cazzo poti a fumare. E io a Natalino tante volte gli ho detto di smettere completamente. Ho preso 3-4 volte per i capelli, che non va. Perché lui beve anche un bel posto qua, ma un bel mi, c'è birra, vino e quant'altro, c'è poi alcolici, e fuma un bel, una dietro l'altra. Hai detto non ne ha puttiata, non ne ha imbriaco, poi sono tutti i cicatti che si fuma. E quello l'aiuta a farli vedere il fatto. Per più bello. 3-4 volte l'hanno salvato. E gente senza gabbo. Ma cabuzzo, cabaretto, va. Come ne ho più commesso la vacante pure. Poi non vale mezzo schiaffo. Boh, gente così, Io mi dammi un imbriaghiera, me ne sono dimenticato, da quando ero un ragazzino, che in campagna facevamo le feste qualche volta, qualche tazza di vino in più, e dopo c'era il padre di questo amico mio che faceva il vino, era un bel forte, quello ti grimbava, se ne bevi 2 o 3 bicchieri già di gusto. Da quando ero un ragazzo, non mi ricordo più di essermi imbriagato. Vabbè, prima di Natale, dai, dovevamo mangiare un attimo. Sì, io lo stesso, io non bevo nulla. No, io che non bevo non l'ho detto, io un bicchiere di birra, per dire, mangiando la pizza me lo bevo, ma non è esagerato, capito? Un bicchiere non ti va di nulla, e sempre devi avere sempre moderazione nelle cose. Lo so, anch'io me lo bevo mezzo bicchiere di vino a pranzo, però, capito, mangiando. Mezzo bicchiere, neanche uno, figurati, che dice che un bicchiere al giorno fa bene, quando stai mangiando, capito? Io quando, e non è sempre che lo bevo neanche, mi acchirubino, non è che mattina assai, già. Quando mangio qualcosa che mi attira di bere il vino, me ne bevo mezzo bicchiere. Mi chiami bene mia moglie, che qua te lo puoi dire. Qua, ma con me il vino non è che mi attiri tanto, però c'era un periodo che bevevamo questo lambrusco che vendono qua al discount vicino a casa, ma è veramente buono, è frizzante, ti fa digerire tutto quanto, poi non l'ho più preso perché stava diventando un'abitudine, se non ce l'avevamo, manca il vino, allora ho detto beh, basta, ma se no ti abbiamo a vite. Infatti, a me io non è sempre che lo bevo, Concetta già lo beve, però sempre a pranzo. Ma io l'ho sempre bevuto, sto mangiando. Allora è moderata anche lì, lui se ne beve un bicchiere, io qualcosa di meno. Ma non è che se ne beve un bicchiere si sconvolge. Già si sconvolge, chi sa zimbacca a te diventi, chi non arriva zinuta, un bicchiere se ne beve tranquilla quando sta mangiando, mica la imbriaghezza. Beh, comunque quell'ambrusco è buono, a me mi piace un bel, e non è pesante come vino, è un vino amabile, è dolce, è gasato, bello, buono, ti fa anche digerire. Beh, il vino buono lo sai qual è? Allora, vino rosso amabile, questo qui, piso sempre ghiccio io, è buon avvio, imbottigliato dalla vitivinicola Antichipo di Ierzo, di Ierzo è ghiccio. Io invece prendevo rosato di Dorgali, quello lì sì che è buono. Sì, devi assaggiare questo è bene veramente. State attenti quando andate a comprare la pasta alle rosine. Perché? Cos'è successo? No, io pasta non ne sto mangiando qua. L'unica pasta che compro per il cane, io non ne mangio. Servo lo scaffale della pasta di noi fumigui, l'ho portato io da fuori, mica sono entrato, cioè l'ho portato io quando ho comprato la pasta, mica sono entrato da fuori formiche, lo vedo. No, male a me che ho trovato un pacco di pasta, meno male che era la pasta prima nel piatto bianco, la controlla tutta. Allora ho trovato gli animali, tipo breduvava insomma. E dentro la pasta vanno. Sì, Luzzana. La moglie pulendo la cucina, faceva preparando la cena, c'è queste formiche, come lavorano se non entra qui in migue notti? È impossibile, perché non ce n'è varche per le formiche, qui sono, non le ho mai viste io. Apro lo scaffale della pasta, butto bene il vimicola. Ci ho buttato pacchi di pasta aperta che non ne avete idea. Una busta mi ho riempito, ma dimmi tu, ho dovuto disinfettare tutto e pulire tutto. Tutto dentro i pacchi di pasta. E dentro la pasta vanno a finire. No, io l'ho data al cane, la verità, glielo bollita e glielo data al cane. Tanto il cane arriva di nuda. Però ho dovuto disinfettare tutto il mobile. Il mobile è quello nato lì che ti ho detto dove c'era il frigorifero che ho fatto la dispensa, l'ho tutta svuotata dalla pasta e Elena non ne vuole più di pasta perché se vuole vuole quella praticamente tipo pasta fresca, roba così, se no non ne vuole perché ha paura che ci siano gli insetti. E ha ragione. Ma io non... Pasta ne ho ma non ce n'è perché non ci vado a Aerospin, capito? Magari è lì che è entrata. Allora, puliscono in primavera questi animali qua, lo so perché anche un'amica mia è successo e me l'ha detto. Tu in primavera pasta non hai di comprare perché la pasta ti fa questi animali. Addirittura io mi ricordo di un anno che la pasta Agnesi, ti parlo dell'Agnesi, aveva fatto questi animali dove lavoravo e avevamo disinfettato, tolta tutta la pasta e disinfettato perché se no contagiava anche l'altra. Beh, due miei colleghi li hanno dovuti ricoverare tutti i punti da questi animali, tutti i punti come toglievano la pasta, le appunte erano tutti a bolle, tutti a chiatte, l'hanno dovuti ricoverare tutti e due. No, non sono animali già, Uzzana, quelle formicoline, quelle formiche piccole. No, io ho trovato tipo preduvava che hanno il fungiglione davanti, che bucano la pasta. C'hanno una specie di pungiglione, come ti lo preduvava? Ho capito, quello formice lo chiamavamo da bambini. Ma queste erano formiche, da già un po' di tutto. Adesso vorrei andare a comprare la pasta, vai, non la mai. Aspettati 10 minuti, che ho disinfettato così metto a posto. Cambi a posto, almeno la bigliano Matesilo, che se no magari c'erano in magazzino, la rimettono in vendita e ti butti d'oro. Infatti, non è bigliata Aerospin, là. No, la prendo la coperta adesso la pasta. Avanti break, un attimino di bianco per me. Sì, Santiago, 9.5 la radio è un po'... cosa ti posso dire? Ha un effetto camera. Meno male che ogni tanto è gente a salutarci, che ti ricordi di noi, là, entra più spesso. Ciao Capri 2, adesso ti passo l'Atalino, poi faccio girare, là. Avanti l'Atalino. Io non lo sento a Capri 2. Ciao Gianni, se mi stai ascoltando, Fai da ponte. Ciao Capri 2, ci sentiamo. Mi ha detto che si è comprato la nuova radio, la sballata oggi, la stava provando, l'Atalino. Una K. Vabbè capito, comunque come alimentazione dovrebbe essere a posto. La radio è che non mi convince tanto, Capri 2. L'effetto lontananza, non lo so. Come la definisci tu la tali questo tipo di radio? Io lo sentivo basso qua. Ciao Claudio, avanti, ci sei. Ciao Capri 2. Ha chiuso, tu come lo sentivi di radio? Era strana, vero? Fra poco lo sentito. No, io già lo sentivo bene, però la radio dà un effetto lontananza, boh, qualcosa del genere, forse vuole regolato, boh. Bisogna vedere che radio è, hai capito? Che magari per qua non va bene, poi arrivava anche basso il segnale. No, qua era 9.5 il segnale, KK. Vabbè, che ore sono? Verso le 8:30 ci porta a Taiso, dai. Se non lo porta aereo, adesso aspettando quello, vediamo se lo porta lì. Se lo porta lì, ero manco dalle zarigheggie, non cammini già. Ma muro niente, dimmi. Sì, all'intendo sì. Allora. Ma tu sei in quelle condizioni, è quello. No, adesso vado, dai. Ti saluto e vado a portarlo, dai. Non lo posso vedere io così il cane. Lui, no, di solito lo porta a quest'ora, per quello lo sa, lui, capito? Andate, dai. Ci sentiamo, Natalino, ciao Claudio, ciao anche a Luca. Mo continuo a questo, dai. Mi ha fatto piacere che stasera un po' abbiamo parlato. Ciao, ciao. Ciao Gianni, se mi stai ascoltando, stavo parlando con la 50. Buon tutto, allora, là, ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto piacere ascoltarli, grazie per le quattro chiacchiere. Luca, ci sì. Vabbè, me ne passo in QRT. Ciao a tutti, anche a quelli che fossero in ascolto. Ciao, ciao Natalia, dai, sto facendo cose, ci sentiamo. Ciao Claudia, alle prossime. Hola, c'è qualcuno su 10? 5-10? 110, c'è qualcuno? 5-10, 5 canale 10. Chi è avanti? Buonasera. Ciao Tino, e beh, tanto tempo non ci sentiamo. Tempo denaro. Non ho tempo per fare la radio, ma giusto adesso mi sono seduto 5 minuti, perché sinceramente sto uscendo dalla piscina, sto aspettando i miei figli per farmi la doccia. E anche io poi c'era troppo caldo, mi ha acceso prima in altre bande, sta facendo delle cose lì, poi adesso ho acceso su 10, se c'è qualcuno che sono da molto e non senta nessuno, è tornare per salutare. Ok, beh, le vacanze finite, Tino. Anche ora, allora, ho fatto 15 giorni, sì, tutto bene, adesso mi ha preso anche un altro giorno, lunedì prossimo, libero, che devo fare cose in famiglia, e quindi mi faccio sabato, domenica e lunedì. Col camper naturalmente. Sì. Anche io sono rientrato lunedì, lo stesso ne ho fatto 2 settimane, ma è andata bene, dai. Ho fatto dei posti che non ero mai andato, sono sceso giù a Masua. Sei mai sceso giù a Bugello? No, io sono andato a Siniscola, poi a Bella Sardegna. E poi ho fatto qualche giorno, infatti ci ritornerò, che è un posto stupendo, bellissimo come posto di mare, a Tancau, vicino a Santa Mariana Varrese. Consigliabilissimo, è un posto, costa poco, c'è tutto a disposizione, un mare da paura, sul mare proprio, l'occhio del coso, dei camper, proprio di fronte al mare, a pochi metri, ed è una cosa da spettacolo. Ah, sì, bello, Santa Mariana Varrese me l'hanno consigliato, però non ci sono mai andato. Aspetta un attimino, mi metto. Com'è il posto? Come si chiama, Roberto? Vado a vederlo. Guarda, se c'è tempo di andarci è uno spettacolo, che poi puoi prendere anche il gommone, se voi fate anche un giro di lì, tutte quelle cose, le calette di Calagone, Calagone, Calamariolo, eccetera. Io ho preso anche il gommone di lì, sono fatto accompagnare ed è uno spettacolo. Tancau è attaccato a 500 metri da Santa Mariana Varrese, il posto dove dico io si chiama Tancau, e c'è un posto per i camper sul mare, attaccato al mare, attraverso la strada e sul mare. Uno spettacolo, costa 29 euro tutto il giorno, a giorno, e c'è tutto a disposizione. Naturalmente non c'è piscina, però a fianco c'hai ristoranti, pizzerie, dire tutto quello che vuoi, c'è una bella pineta di fronte, è bellissimo, ti posso garantire, ne vale veramente la pena. Se c'è tempo magari è un po' lontanuccio arrivarci, però è uno spettacolo di mare e di posto. Poi la sera c'è sempre movimento, ci sono feste di lì a Santa Maria della Barrese, non c'è un momento di, diciamo, di mutismo, c'è sempre qualcosa. Ma cos'è, un camper service oppure un campeggio? No, no, aria camper, però è bella perché ci sono anche gli alberi e sei già sulla spiaggia, cioè attraversi la strada e sei sulla spiaggia, c'è un mare stupendo, ma proprio veramente bello, con degli scogli affioranti. Se ti piace la sabbia, c'è la sabbia, bellissima la spiaggia, ma se ti piace anche nuotare e allontanarti, ci sono degli isolotti vicini o anche un po' più lontani, ed è uno spettacolo. Poi c'è una bellissima pineta con ristorante a fianco, se ti piace, se no, se ti vuoi spostare la sera a piedi senza neanche prendere la macchina, sono 500 metri e te ne vai proprio a Santa Maria della Barrese, il villaggio, diciamo, è uno spettacolo, c'è di tutto di più. Sì, interessante, io vabbè, me l'hanno consigliato lì a Santa Maria della Barrese, non è tu, però è un bel lontano. Tu che cosa hai fatto? Perché una volta che forse il navigatore ti porta dalle parti dei paesi, dai. Guarda, non parliamo di strada, perché io ho fatto un grande errore, perché io sono andato a Bugerro, a Porto Flavio, eccetera eccetera, convinto poi di essere dalla parte di sopra, di Sassari, e sono salito sino a Nuoro e poi sono dovuto riscendere, per dirti il contrario ho fatto. Comunque, se tu parti da Sassari, fai Sassari-Nuoro e poi di lì ti passi, vai, diciamo, la strada è abbastanza buona, c'è la 131, poi c'è la strada che porta a Nuoro, ti farei da Santa Maria della Novarrese Nuoro, saranno 70 km qualche pezzo di curve, ma diciamo si può andare tranquillamente. Io ho fatto 80 km in più proprio, però diciamo ci stanno, dai. Potevo passare direttamente dalla parte bassa di Cagliari, invece sono preso la strada di Vinzanuro per riscendere giù. Comunque io c'era andato 3 anni fa, è cambiato totalmente il servizio, mi ha consigliato un amico che ci va tutti gli anni da 10 anni di più, mi ha detto vai lì e non sbagli. Vabbè, no, non lascio, vabbè, non so se ci vado. Vabbè, ma adesso abbiamo ripreso, siamo un po' intasati, vediamo. Però me lo lascio il prossimo anno, ma vado dopo Ferragosto, perché guarda, credimi, io ho speso per stare male, perché diciamo che è un posto bellissimo, però il clima era da odiare. Ho fatto Siniscola, poi sono andato lì nella Sardegna, però il caldo a me mi ha crepato, poi avevo anche il cane appresso, quindi ti puoi immaginare, questo rosso è sempre affaticato, è sempre smorrando, poveraccio, perché va troppo caldo. Invece diciamo che ho fatto venerdì, sabato e domenica, li ho fatti all'Argentiera, in Libera, sono rinato perché ho respirato e non per altro. Ma scusa un attimino, allora vabbè, tu sei andato, ma sei andato in campeggio a Siniscola? Sì. San Giovanni, sei andato a Santa Maria? Sono andato lì, sai, non ricordo come si chiama, sono andato lì a Siniscola, era un campeggio, non mi ricordo neanche il nome, mia moglie è più aggiornata di me. Però era bello come campeggio, anche il mare era bello. Santa Lucia. Era Santa Lucia, era? La spiaggia di Santa Lucia, credo, sì. Sì, no, vabbè, un po' caruccio come posto di lì, però diciamo già è bellino, ma non c'ha niente a che vedere dove ti dico io. Dove ti dico io, a parte c'è anche ombra, sono degli alberi, e la cosa bella è che sei già sul mare, ed è un locato, nel senso, un'area camper è bello, c'hai tutti i servizi, non c'avrai la piscina, non c'avrai il coso, lo spazio per prenderti gli alimentari, ma c'hai tutto a fianco, che problemi c'ha? Però ti posso garantire, il mare gli fa 10-0 a Siniscola, tutta quella. C'è troppo caos, Siniscola di lì, diciamo piano piano, andando verso l'Ogliastra diminuisce, ma sino a prima di Siniscola non ti puoi punire in un angolo, è tutto pieno di gente, un sacco di cose, ma non mi piace avere un confuso. E poi dimmi un po', la gente, tu sei andato col camper? Sì, sono andato a Porto Palmas, però anziché stare lì alla spiaggia sono salito su, dove, non so se ti ricordi, avevamo chiuso la strada lì, dopodiché l'abbiamo aperta perché per vie traverse. E ha parcheggiato, dopo lo sbarco ha parcheggiato lì sulla sinistra. No, conosco bene la gente, io vado sempre lì perché la bellezza di quel posto che c'è una ventilazione la sera, allora hai pranzo che in altri posti i muri, ti apri la finestra, c'è cioè quella brezzolina, ti sta troppo bene. Però avevano chiuso, pensavo non si potesse più andare, allora cioè, ci vado, forse se ne voglia fine settimana ci faccio. Non lo so, guarda, sono incerto anche io, perché ti ripeto, devo andare a Urbia, lavoro la panoramica, poi vado a. Qua c'è la Padrin lì, ora c'è, non mi ricordo, quei giochi là. No. E dopodiché quando chiude quello lì ritorno indietro, vado a Padova oppure vado lì a Acque Dolci, ecco. E lì a Acque Dolci sto parlando, ma poi anche Bellino, naturalmente quando non c'è mai strada forte, perché sennò è burrasca, lì c'è quella specie di calettina che poi c'è l'acqua bassa, lì è un po' riparata anche quando c'è mai strada. Però io andavo sempre lì, anche senza andare col campo, andavo in un posto tranquillo, poi ci sono quelle calette più in giù, più avanti che sono un po' più impervie, però è bellissimo. A me la gentiera di posti vicini è il più bello che c'è, perché a me non piace la confusione, vai lì, ti rilassi, la sera poi c'hai il camper in alto, ti esce questa brezzolina, è troppo bene, bello, non c'è niente, nel senso non hai nessun servizio né nulla, però pensavo avessero vietato l'ingresso dei camper, di nuovo a Tettino. Sì, allora lì noi avevamo chiuso, abbiamo chiuso noi perché il padrone ci aveva detto di chiudere, però a quanto pare non si poteva chiudere, non si poteva chiudere perché bisogna lasciare aperto, insomma, e siamo voluti riandare a togliere nuovamente quei massi. Sì, si può entrare, devo fare un'info però, perché allora, adesso in questo periodo c'è un po' di controllo per quanto riguarda la municipale e i marrancelli, quindi tu sai benissimo che non puoi neanche togliere un erbaio, ma soprattutto non puoi stare dentro il mezzo, che è una cosa che secondo me è una cosa nuova. Cioè non puoi stare dentro il mezzo, cioè? Tu devi arrivare lì, parcheggi e te vai in spiaggia, è finito, cioè non puoi mangiare, non ti puoi riposare, e poi vabbè, forse è stata una sorta di controllo, così dopodiché non hanno più rotto le scatole, ecco. Ma stanno bene da controllare di nuovo, allora come dicevo io, perché 2 anni fa hanno fatto strage mettendo multe da tutte le parti, ma io dico ma che cacchio ne hai, sembrano i camperizi gli appestati, sono gli unici che puliscono, che riordinano, fanno anche un po' di animazione nella zona perché ci sono sempre i gruppetti e cosa, e cacchio ti stanno facendo di tutto per allontanarli, questo che a me mi dà fare. Poi vanno i ragazzi a Platamona con le buste, trampano e tutto e nessuno li cerca. Lo so, ho detto, questa è la prima cosa che sento, ho detto guarda ci sono 500 euro di multa. Ah, davvero? Ho detto guarda non si preoccupi, che sto piegando le sdraio, me ne sto andando. Io ho sentito gente che si stava lavando con l'acqua, con la doccetta fuori, e gli hanno messo 500 euro di multa. Dico, e cosa stai inquinando? Acqua, non è che stai buttando shampoo e cosa, anzi stai rinfrescando il terreno. E gli hanno messo 500 euro di multa, devi proprio alle acque dolci. Io ogni giorno me la faccio con la doccia fuori, per non stare lì a... La facevo fuori, me la rinfrescavo dopo che mi facevo il bagno per dire ci sono quel vano, per non fare bossare addosso. E questo non lo sapevo, vedi? Non è che ne è una nuova, poi se appena aprivi, adesso mi stai dicendo questo di rimanere dentro, non lo sapevo, se aprivi uno sportello, una finestra e cosa, per loro era camping ed era in contravvenzione. Ma di cosa stiamo parlando? Cacca. Vai a cercare i delinquenti, a cercare i criminali, non andate a cercare niente che vuole prendere un po' di fresco e prendere un po' di aria dopo anni e anni, dopo l'anno di lavoro. Allora, è la stessa cosa che ho detto io, perché detto, è campeggio, mi spieghi dove... Mi sta prendendo un po' di fresco fuori dal mio camper, tutto chiuso, tutto quanto, ecco, non credo di fare male a nessuno, ma no, così è campeggio, anzi faccia scendere la gente da dentro perché non posso neanche dentro il camper, davvero. Ma facciamo una cosa, che mi metto queste due sedie dentro e metto in moto e me sto andando. Invece che di grini venene con il coso, con tutti i frigo, tutta quella roba lì, con gazebo e tutto quanto, possono fare tutto, sporcano, lasciano le buste lì, quelli glielo permettono. Quelli che se ne vanno in spiaggia e si mettono 20 ombrelloni, gazebo, barbecue, eccetera, eccetera, quelli non li dite di nulla. Sì, allora, ricordate una cosa, in spiaggia è concesso tutto, credo che puoi fare anche il fuoco in spiaggia, con il barbecue, adesso informati, questa è un... l'ho avuto un po' così, perché sinceramente non mi ricordo la... c'è qualche direttiva o meno. Infatti ci sono dei controsensi delle leggi, allucinanti, non lo so. Comunque quando ci avrai tempo, se non quest'anno vacci, te lo consiglio al 100%. Infatti io andavo sempre tutti gli anni nella zona di Calaginepro, dove c'è Saprama, di lì, che c'è una bella pinetta, che poi tra l'altro adesso l'anno scorso non facevano neanche più entrare i camper, dice che quelli delle chiese, delle ville si sono lamentati, non capisco. Ci saranno stati massimo contemporanei a 7-8 camper, mai di più ne ho visto. Per costringerti ad andare nel camping, bellissimo ma caro anche di lì. Guarda, ho trovato questo posto tramite consigli, ci ritornerò, se mi ritroverò l'anno prossimo andrò al 100% di lì, ti posso garantire, è un posto stupendo. Poi gente bellissima, cordiale, gentile, tutto, cioè non ho 10 li do a quel posto. Sì, dai, 10 no, perché a me mi sarebbe piaciuto avere anche la piscina, Roberto, ma giusto non tanto per me, ma anche per me, però la maggior parte per i ragazzi, dai, perché non vuole andare al mare, si vuole fare un rinfrescatina lì in piscina, già, non è sbagliato, dai, diciamo, è che vabbè, anche quella vuole cercata, dai. No, ma ci sono i camping quelli organizzati con piscina, con lo spazio, lì vicino a Orri, bellissime spiagge, ma lì c'era tanta gente, però sinceramente a me quando c'è troppo confuso, mentre qua c'è tanto spazio, poi vedi, vuoi andare verso le Calagolone, tutte quelle zone lì, quelle cale lì, ci sono i comuni, che è una cosa spettacolare, guarda, ti diverti, vai dalla mattina presto e torni la sera, ma è una cosa indimenticabile, proprio Calagolizze, Cala Sisine, Cala Ginepro, Cala Luna, è stata una cosa bellissima. Ma proprio una cosa da che consiglio a chiunque. Poi la cosa più bella è il mare, mi è piaciuto proprio bello, come piace a me, perché io mi faccio il giro con la maschera, vado sempre a farmi un giro a me, a stare tipo la Pelosa, uno in alto all'altro, un mare stupendo, però l'acqua a 20 cm, a me piace entrare in acqua, ti fai il giretto, lì l'acqua è abbastanza alta, subito senza problemi, e ti diverti, veramente bello. Di nuovo riprendi. Anch'io mi maschero a Carnevale. Io sono entrato, ciao fra. Sono entrato alla gentiera, vabbè, ho trovato una tana di un fuoco, c'è entrato anche il braccio, ma lui non c'era, peccato, lì proprio alle acque dolci, però non ho visto un grande movimento di pesce, quindi non sono stato lì neanche, ho provato una cannetta, ma niente, lì è dato per scontato, non lo so qual è per certo, anche perché io andavo a pescare lì, io andavo... dove c'è tuttora il cimitero, no? Dietro il cimitero andavo, ma lì si pesca quando c'è proprio mare incazzato. Andare, vabbè, no, comunque dai, Tancao l'aprimo, se è Tancao vuol dire che proviamo a aprirlo, i prezzi saranno superiori, credo in periodo di Ferragosto, però mi organizzerò, quest'anno è andata così, ho parlato per soffrire, ti ripeto, prossimo anno, se Dio vuole, mi organizzerò, là, cercherò di fare una cosa più diretta. Vai, Clap. Ciao, buonasera a te due, no, sono entrato sulla salute, perché sono entrato a spegnere la radio, vorrei vedermi la TV. Buonasera a tutti, comunque, posso spegnere come non avevo dubbi, perché ci ho lavorato, Villa Simius, non si sbaglia, non c'è niente da fare, 500 euro a 3 giorni. E si apposta, c'avevi tutto, docce, bagni, piscina, campo da tennis, campo di tutto, fuga, poi battate via. E non era molto affollato quest'anno, non so perché. Vabbè, comunque, questo è il problema di mia figlia. Ci sentiamo, dai, sono entrato solo per salutarvi, tu sei entrato al lavoro, Roberto? Ieri sono entrato, no, ho fatto diciamo discretamente, dai, quest'anno è già andata bene, l'anno scorso ci sono stati problemini, quest'anno mi sono divertito e poi ho concluso con domenica, sono andato alla Renara con l'amico mio in Barcavera, blocco bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo, pranzo a bordo e tutto. Tancao, come si chiama, paghi 29 euro al giorno, fino 5 persone comprese, per andare col camper con 5 persone. Se vai di lì dove stai dicendo tu, o a Saprama, dove andavo io, 14 euro al giorno il camper e 13 euro a persona dovevi pagare, cioè 5 persone, fatti un conto cosa ti esce, di là 29 euro e puoi far venire 5 persone in contemporanea. Ok, di nuovo Tino. Sì, il cane lo fanno entrare? Certo che sì, la maggior parte di gente c'aveva il cane di lì. Perché io non lo faccio qua a casa, quando vado in ferie viene con me, perché poi vabbè è un bambinone questo qua. Vabbè, Carlo, ma stai chiudendo? Sì, vado a vedere un po' di TV, dai. Sono entrato a spegnere la radio, perché sono tutta la sera, sono accesi, devo scegliere, tengo sempre accesi. Vi saluto, un abbraccio a tutti e ci sentiamo alle prossimine, ciao. Aspetta, mettiti gli occhiali, metti il canocchiale un attimo. Ora si è cambiato qualche cosa? 9:10 pieno, sì. Ma allora è sempre lo stesso, eh? Sì, sempre lo stesso, però io non so quando tu attacchi con quell'altro baracchino, bravissimo, lo rendi con un gatto, c'è 9:30, ho già ne giù. No, questo è il capo, l'altro è San Mike adesso, non vuole accenderlo. 9:10 pieno, il tuo segnale. Guardate che stai usando 9:10 pieno, va bene. Va bene, no, anche perché l'altra volta mi ha accorso, forse faceva il rientro, Roberto. Avevo il computer acceso, schiacciavo sulla portata e che sta succedendo? Però Tino, ti devo dire una cosa, un qualche minuto fa stavi uscendo di segnale bassissimo, un rumore strano si sentiva per pochi secondi e poi ti sei ripreso, non so se eri sottodimensionato come alimentatore, magari è successo qualcosa, per pochi secondi sei andato molto basso, qua il segnale tuo è 9:15, radio bella chiara, bellissima, niente da dire. Claudio, quando sei entrato una passa a me a salutarmi e basta, poi nient'altro, novità, se invece ci racconteremo in verticale. Dino, guarda Claudio, cosa ti sta dicendo? Cos'è quello, il 430 o il 440 questo Claudio? O cioè il 140? No, questo è il 140 e il 430, l'ho spento proprio adesso, ce l'avevo stasera e stavo facendo due chiacchiere con i ragazzi. Ogni tanto accendo anche questo, il 920 con il 60, va bene, infatti 920 lo stesso in M, va bene lo stesso. Va bene, no, vabbè, vabbè, lunedì non siamo passati, è appena rientrato, eccetera. Stamattina sono andato per le segne a scaricare un po' di roba che avevo nel carrello da buttare via e quindi ho perso un po' di tempo, poi sono andato a fare la spesa e mi sono rientrato a casa. Magari domani se ho 5 minuti che esco già posso a trovare. Dai, vi saluto, io non voglio essere qua. Buon proseguo di queste ore, ci sentiamo. Sì, Tino, non ho fatto anch'io poc'anzi, praticamente sei calato di segnale e c'era un rumore sotto e poi ti sei ripreso subito. Pensavo che non so. Ho appena acceso, quando ho fischiato, ho fatto accendendolo, accordando e niente, chiamando. Quindi però c'è anche quello. Non so, ma è durato pochi secondi. Cos'è questa che radio è? K? Sì. O 60? No, è 450. No, 60 al microfono. Sì. No, va benissimo, radio bella chiara, pulita, una telefonata. Niente da dire. Ok, lasciamo se continua il bianco, se vuole entrare qualcuno, se no riprendi tutti, no? Questa va bene, sì. Una bomba, bella piena, corposa. Con la radio non c'è da scherzare, va benissimo. Questo è l'MC50, proprio come aveva tutto, col 440. Va bene, ottimo. Ho spento proprio 10 minuti fa il 430. Sto usando tutta la sera quello, ma ogni tanto lo faccio girare tutto perché sono di nuovo troppo. Va bene, dai, vi risaluto, ti riprendi, fai girare tu con Roberto. Un saluto a tutti, anche a quelli che ascoltano, cuoretti per me, ciao. Ehi, va bene. No, anch'io, infatti sto temporeggiando un pochino perché devo andare a fare la doccia. Sono seduto con l'asciugamano nella sedia e sto aspettando a Gabriele che esca dalla doccia per poter entrare io. Quindi ne approfitto, perché ho sentito uscire, e ne approfitto io Mike, dai, ti saluto e saluto anche a te, Robè. Tante salutone anche a chi ci sta ascoltando. E niente, riprendi Robè. Ehi, saluto a tutti e due, dai, io tengo acceso, tanto sono su altre zone, dai, su altre sintonie, tengo acceso, se entra qualcuno, se no ne vado a vedere un pezzo di televisione. Comunque se c'è qualche milanista, il Milan ha fatto 0-0 e poi adesso alle 9:15, l'ha già iniziata, c'è Inter Cremonese per chi se la vuole vedere. Sabato, peccato che sia alle 6, c'è Milan Inter, quella è una bella partita. Ok, di nuovo saluti a Tino, buon tutto, buon proseguo e buon lavoro per domani, se deve andare, idem compattate al carissimo amico Claudio. Ciao a tutti. Ciao, vabbè, ciao.